cicogna nera. Iniziamo anche questa sera quando sono le 21.07 con un po' di problemi tecnici, le musiche del mondo di Radio Onda Rossa, la Cicogna Nera, e questa sera iniziamo con una ninna nanna perché la Cicogna Nera è un po' malatuccia, quindi ha bisogno di riposarsi. Iniziamo lontano da Pechino, loro sono gli Hangai. Ninna Nanna, una lullaby chiamata Borulai per questo gruppo che arriva da Pechino, ma che in realtà è originario, almeno tre quinti della sua formazione, dalla Mongolia, o almeno da un'origine, da una regione che si chiama Inner Mongolia, una Mongolia interna, e che è proprio al confine con la Mongolia, un paesaggio abbastanza aspro, desertico, e forse proprio per questo si sono dati questo nome Hangai, che sta a significare proprio un luogo composto idealmente da montagne, boschi, fiumi coperti da un cielo blu intenso e quant'altro. Insomma, Ilci è il leader di questa formazione, e pensate che prima di dedicarsi alla tradizione folk mongola faceva parte di un gruppo punk che rispondeva al nome dei T9, Poi, insomma, ha studiato abbastanza a lungo le sue origini mongole e le tecniche, i canti, compreso il kargira, un canto di gola, che oramai sono a rischio di estinzione, come d'altronde in molte parti del mondo, compresa la stessa Italia. E che dire ancora di questo quintetto? Abbiamo già detto della loro origine folk mongola, avrete sentito anche il programming presente, il PC, quindi un po' di elettronica anche in questa canzone, forse proprio è proprio perché la produzione è affidata a due persone occidentali che rispondono al nome di Robin Haller e Matteo Scumaci. E noi continuiamo questa apertura della Cicogna Nera collegandoci sempre a una tradizione folk mongola, a una giovane cantante che arriva dalle stesse zone e che risiede anche a Pechino e che ha attecchito parecchio ultimamente nel panorama della musica, dell'industria musicale cinese. Lei si chiama Sa Ding Ding ed è una compositrice, una cantante, una songwriter e anche una produttrice e coreografa del gruppo. E come gli Hangai mescola insomma folk ed elettronica. Questa volta il folk non è proprio quello tipico mongolo, ma più che altro arriva spesso dai mantra o dalle melodie tibetane. Lei in effetti canta indifferentemente in mandarino, in tibetano e pensate anche in sanscrito, una lingua molto antica, una delle prime lingue indoeuropee da cui derivano le lingue più moderne di tutta l'India del Nord, compresa l'Hindi, oppure anche molte dei mantra, molte delle formule rituali del Tibet. La stessa, il ruolo di questa lingua, insomma, possiamo un po' vederlo come quello che è stato per la nostra cultura europea il latino e il greco. In effetti, come abbiamo già detto, in sanscrito furono composti molti testi classici, ad esempio i Veda, i testi sacri dell'India del Nord, oppure gli stessi mantra di cui abbiamo citato. E dunque andiamo subito a sentire questa Sa Ding Ding con un album che è uscito nel 2006, si chiama Alive, e ci andiamo ad ascoltare la canzone di apertura che è un mantra per l'appunto e si chiama Mama Tian Na. abbastanza spiazzante questa Mama Tian Na, questo mantra di questa nuova cantante cinese che mescola così in un modo abbastanza innovativo le melodie tradizionali della sua terra con un'elettronica molto elegante e ricercata. Dunque questi erano i primi due cantanti o gruppi cinesi che abbiamo presentato questa sera. E a proposito di Sa Ding Ding, volevo aggiungere che il governo della Cina ha deciso di, nel prossimo Expo 2010 che si terrà a Shanghai, di presentarla come la prima cantante pop internazionale cinese in sanscrito, quindi nella lingua praticamente indù. E questa ragione, come ci dice un articolo che abbiamo ripreso da un sito internet che si chiama orientaliaforall.net, con for scritto a 4, nel senso che lei, come abbiamo detto, canta in cinese, tibetano e sanscrito, e il sanscrito è la lingua originaria di molti testi del buddismo tantrico, è la stessa lingua che ha studiato per parecchi anni il Dalai Lama. E così il governo cinese, lanciando sul panorama internazionale questa cantante cinese in sanscrito, è come dire insomma che la tradizione tibetana fa autenticamente parte da sempre della Cina. Insomma, Sa Ding Ding sì è cinese, ma di tibetano non ha niente insomma nelle fattezze e nella cultura, e presentarla come l'emblema della Cina è uno schiaffo abbastanza evidente alla libertà del Tibet e alla stessa lingua sanscrita, perché fa parte culturalmente dell'India. Dunque è un po' come sfidare l'India in casa sul suo stesso terreno. Comunque non aggiungiamo nient'altro, come abbiamo detto lasciamo questi due gruppi cinesi che abbiamo presentato per la serata, e per il resto invece ci accorderemo nella vicina India, sia tradizionalmente, nel senso sia di cantanti che sono nati e continuano la tradizione indiana, sia di sonorità indiane, quindi magari di diaspore sonore di musicisti che vivono all'estero o che hanno semplicemente radici indiane. E per far questo ci trasferiamo subito a Londra, dove c'è uno dei DJ più interessanti, DJ e musicista aggiungerei, più interessanti del panorama delle musiche del mondo mescolate all'elettronica, che si chiama Nitin Sony. Recentemente anche a Roma, lo scorso anno se non sbaglio, al Festival di Villada, che è uno dei festival migliori per chi è appassionato di questo genere musicale, il festival che si tiene penso da giugno fino a settembre al laghetto di Villada sulla Salaria qui a Roma. Comunque noi andiamo a sentirci una canzone di Nitin Sony, che ovviamente ha origini indiane e che pubblica London Undersound nel 2008, il suo 8° album, conservando dentro di sé un pensiero insito in tutto l'album per la tragedia degli attentati londinesi del 7 luglio del 2005. Una particolarità di questo DJ è che lui non mette mai la sua voce in primo piano. Tutti i pezzi, sia a livello strumentale sia a livello elettronico, ma poi chiama un parterre d'ospiti per ogni album che si avvicendano, insomma, e questo è un fattore molto buono, perché loro contribuiscono con le loro etnie, con le loro modulità, con le loro inflessioni a rendere più affascinante, per così dire, il souk meticciato che Nitin Sony riesce a fare. E allora, pop, musica etnica e soprattutto elettronica in questo London Undersound, dove ritroviamo ad esempio Paul McCartney, dove ritroviamo la brasiliana, una cantante brasiliana, Tina Grace, dove ritroviamo la band barcellonese di flamenco, di pachanga, degli Ojos de Brujo, e dove ritroviamo ancora una altra donna di origine indiana che vive a Londra, che si chiama Reina Bardwai, scusate la pronuncia, e che in London Undersound canta in una canzone chiamato Ek Yan. Oh, canzone sicuramente più dolce e forse l'unica in cui non entra l'elettronica di Nitin Sawhney, che sicuramente ascolteremo in altra occasione, appena uscito un nuovo disco suo che si chiama sempre London Undersound, in quanto si tratta di brani degli stessi brani di questo progetto, però brani strumentali e dei remix, dunque non aggiunge fondamentalmente nulla di nuovo. Andiamo avanti ancora nella tradizione musicale indiana della diaspora, cioè nel senso di musica indiana fatta da personaggi che abitano o risiedono all'estero, e questa è adesso è la volta di Tal Kiran Aluwalia, una girovaga che è nata in India però è cresciuta poi in Canada fino a trasferirsi definitivamente a New York di questi tempi. Lei è una grande dapprima studiosa e poi insomma cantante di Ghazal, una forma poetica musicale che ha preso il via in Iran nel XII secolo e poi che con l'influenza culturale soprattutto dei sultanati arabi e della mistica sufi piano piano è arrivata e si è diffusa in tutta l'Asia meridionale, compresa naturalmente l'India. Musica del Ghazal, che ha una radice araba e che significa proprio discussione, amore. In effetti gli argomenti affrontati almeno in principio sono proprio questi, specialmente magari quelli legati al tema dell'amore proibito, ma anche quelli, non so, per dire erotici o legato a feste, così. Comunque il Ghazal è più che altro un termine per indicare la forma della poesia urdu e persiana, ma il nome non indica una lingua specifica, nel senso non è legato ad una lingua specifica. In effetti esistono Ghazal in lingua Pashtun o Kashmiri, per restare in ambito asiatico, oppure recentemente ad esempio sono stati composti per dire Ghazal anche in lingue europee come il tedesco e l'inglese. E allora andiamocelo a sentire questo Ghazal attualizzato e parecchio strano di Kiran Aluwalia, che esce con il suo ultimo progetto nel 2007 per la World Village, e l'album si chiama Wanderlust, invece la canzone che ci andiamo ad ascoltare è il numero 3 ed è Terei Darsan. जाती Questo è dunque il Ghazal di Kiran Ahluwalia, che non solo unisce questa forma poetica al rock, al pop, a elementi così occidentali, ma anche ad altre musiche tradizionali europee. In effetti in questo Wanderlust l'influenza primaria, oltre il Ghazal, è quello della musica lusitana per eccellenza, ossia il fado in Portogallo, che è diventata per Kiran un suo amore, insomma. E così il carattere malinconico e passionale del fado si è sposato così, come dire, quasi naturalmente con le tematiche del Ghazal, e le hanno permesso di fare questo disco fortemente innovativo. E così, chitarra portoghese e sitar indiano, e per una volta la scoperta non va da noi occidentali verso l'Oriente, nel senso della world music, ma procede proprio all'opposto, dall'Oriente verso Occidente. E proseguiamo, entriamo finalmente nella terra del Ghazal, nella terra della musica carnatica e industana, le due musiche rappresentative dell'India, la prima dell'India del Nord, la seconda dell'India del Sud, una cultura che ha origini veramente molto antiche, che ha origini dal periodo dei Veda, che sono un'antichissima raccolta di testi sacri dei popoli ari, i popoli indo-iraniani, che invasero intorno al XX secolo avanti Cristo l'India settentrionale, e creando le basi, creando l'humus per quello che poi sarà tutte le tematiche e tutte le credenze religiose che avremo nell'induismo. Allora, andiamoci a sentire allora per primo la musica industani, quella dell'India del Nord, che a differenza della carnatica ha avuto influenze dalla cultura araba, dalla cultura persiana, e che verte tradizionalmente intorno alla voce, con parti inizialmente per lo più scritte per performance vocali, il Ghazal in primis, che abbiamo appena ascoltato, di origini persiane, però poi nonostante ciò si è sviluppata una forte tradizione strumentale fino a che oggi, insomma, la musica industana strumentale all'estero è più conosciuta ed apprezzata di quella vocale. Allora, lui è Debashish Bhattacharya, spero che l'ho pronunciato bene, e sull'onda delle musiche del mondo da diversi anni, è un pandit, come si direbbe in India, un maestro, e pubblica un album nel 2003 insieme ad un altro grande virtuoso statunitense di una chitarra slide, la chitarra hawaiana slide per eccellenza, si chiama Bob Brotzman. L'album invece che ci andiamo ad ascoltare si chiama Mahima, e questo pezzo si intitola Tagore Street Blues. Thank you. Le chitarre slide di Bob Brotsman, maestro della chitarra hawaiana, e di Pandit, del maestro Debashish Bhattacharya, e della sua chitarra Katurangi. Lui infatti si è imposto all'attenzione internazionale proprio per questa chitarra modificata, allargata nel manico, che dice che aveva fatto quando aveva circa 11 o 12 anni. Ci dice: dopo aver allargato il manico e aggiunto le corde, il suono dello strumento era diventato molto più vicino a quello del sarod, un altro strumento d'arco molto tipico della musica indostana. Ho sempre amato sitar e sarod e li avevo ben presenti nella mia mente quando ho creato la mia chitarra Katurangi. Dunque questa è la sua chitarra che gli ha decretato il successo nel mondo, e da una chitarra dalle timbriche, dalle armoniche, dai risuonatori, insomma, che si avvicinano molto agli strumenti a corda indiani. Ora invece andiamoci a sentire la musica carnatica, che in realtà è già partita in sottofondo, il prossimo pezzo, e che è confinata più che altro nelle aree dell'Andhra Pradesh, del Karnataka e del Tamil Nadu. E chi stiamo ascoltando invece si chiama Srinivas N. Rayesh, il suo fratello. Scusate per i nomi, ma questa sera è veramente quasi impossibile per me tentare solamente di pronunciare queste sonorità indiane. Comunque sono due maestri anche loro del mandolino elettrificato, strumento rappresentativo della musica carnatica, come anche il mridangam che state ascoltando, è un altro strumento che si avvicina molto alle tabla indiane. E infine in questa canzone si può sentire anche il ghatam, un altro strumento a percussione che è fatto o in terracotta o in ceramica ed ha una forma di vaso. Produce anche suoni che possono essere o gravi o molto acuti. Quest'album che ci stiamo ascoltando si chiama Eternal Bliss del 2004, e ci ascoltiamo un po' un pezzo. Thank you. siamo in questi lunghissimi 10 minuti di Eternal Bliss per andare avanti con la nostra trasmissione, perché il tempo scorre veloce, non abbiamo più tempo, e proseguiamo con il prossimo artista, che ha in comune con l'India solamente il nome. In effetti lui nasce in Texas e si chiama Devendra Banhart, e il nome che arriva appunto da Indra, dalla religione appunto induista. Indra infatti è il signore della folgore e del dio del temporale, ed è spesso la più grande divinità, e spesso è chiamato monarca universale, anche se non è da considerarsi una sovranità al pari di quella di Zeus. Questo perché l'induismo, essendo una religione enoteista, nel pantheon vedico, a differenza di quello greco, ciascun deva è celebrato come il più grande negli inni a lui dedicati. Ecco, è così Indra, è appunto, come abbiamo detto, è il dio guerriero e il protettore degli Ari, il popolo indo-iraniano che guida nelle loro conquiste. La sua figura gigantesca ha barba e capelli fulvi e marcia in battaglia su un carro trainato da due cavalli sauri, brandendo in mano la sua arma, la folgore. Beh, sicuramente Devendra Banhart ha i capelli e la barba lunghi, ma non ha un atteggiamento così combattivo. Comunque noi ce l'andiamo ad ascoltare, è molto prolifico la sua discografia. Quello che ci stiamo per ascoltare stasera arriva da un album del 2007, Smokey Rolls Down Thunder, e la canzone è molto deliziosa, si intitola Samba Vexillografica, Devendra Banhart. La bandera de Alemania tiene tres ampollas mansas llenas de florigramas en sus pies, en sus pies. Y se llaman Staebroska. Mira cómo va a enseñar, mira cómo va a enseñar la bandera de California. Rotas llenas de tus tiernas gotas que salen al revés, salen al revés, salen al revés, salen al revés. Y a nosotros, nosotros, nosotros nos gusta así. Así que múdate pa' aquí, amor, múdate pa' aquí, amor. La bandera de se ve desde la Medina, esposa y divina, pa mi corazón, cora, cora, cora, cora, pa mi corazón, cora, cora, cora, cora. Y aunque la gente es pobre, saben vivir feliz, saben vivir feliz. Llegar al reino del sol, a tu manera. tra mantequilla, dame mantequilla, tra mantequilla, dame mantequilla, tra mantequilla, dame mantequilla, tra mantequilla. Cicogna nera. Mancano 10 minuti alla fine di questa puntata della Cicogna Nera, ritorniamo nei musicisti asiatici almeno e indiani, almeno nelle origini. Parliamo di Ganesh Anandan, che è nato e cresciuto a Bangalore nel sud dell'India, dove ha studiato il flauto carnatico. Poi, come Kiran Aluvalia, si è trasferito in Canada, dove ha approfondito lo studio della musica classica e quella etnomusicologica. Anandan è un eccezionale compositore, improvvisatore e soprattutto creatore di nuovi strumenti, è un eccezionale ricercatore di percussionista. Lui applica concezioni di origine indiana, soprattutto itala, alle superfici meno prevedibili, tutto eccetto quelle classiche, e con le tecniche meno ovvie. E in effetti nell'ultimo album, che si chiama Self Made, è stato pubblicato lo scorso anno nel 2009, utilizza uno strumento che si chiama lo Shruti Stick, uno strumento elettrificato a 12 corde da suonare con bacchette, dita e archetto. Un album che ha pubblicato insieme a un altro sperimentatore di linguaggio e costruttore di strumenti che risponde al nome di Hans Reichel, un tedesco che ha creato uno strumento veramente molto molto difficile da descrivere, magari ci proveremo prossimamente, e che lui chiama il Daxophone. Uno strumento che dà dei suoni che alcune volte sembrano dei flauti indiani, altre volte possono sembrare, che ne so, ad esempio dei nitriti dei cavalli ubriachi, altre volte delle scimmie incazzate. Insomma, veramente un album molto molto innovativo e, come dire, di frontiera. Andiamoci a sentire questa traccia numero 7 di Self Made. Thank you. Ganesh Anandan e Hans Reichel, davvero estremo questo self-made che sicuramente ripasseremo qui alla Cicogna Nera. Siamo quasi alla conclusione di questa puntata, ritorniamo a una musica un po' più indiana, almeno le certezze. In realtà in questo ultimo pezzo che ascolteremo ci sarà molta elettronica, soprattutto drum and bass. Loro si chiamano i Tabla Beat Science, sono un collettivo, un gruppo che è nato per volere di Bill Loswell, un bassista e produttore di musica elettronica statunitense nel 99, e che praticamente riunisce tutti i più grandi, molti dei grandi dei musicisti indiani: Zakir Hussain, il grande suonatore di tabla, Ustad Sultan Khan al Saranji, Talvin Singh, nato a Londra, suonatore di tabla, Trilok Gurtu, altro grande percussionista indiano, Karsh Kale, produttore che abbiamo già passato qui alla Cicogna Nera, lo stesso Bill Loswell, naturalmente, che ha prodotto, ha dato la vita a questo progetto che si chiama Tala Matrix, pubblicato nel 2000, e che è dedicato praticamente alla memoria del grande innovativo virtuoso di tabla Ustad Halla Raka, nato nel 19 e morto nel 2000. La facciamo partire questa ultima canzone, si chiama Audio Maze, è la tracklist numero 3, anzi pensavo che era la 7, invece è la 3, dura quasi 8 minuti ed è composta da Zakir Hussain e Bill Loswell. Noi ci salutiamo qui e la Cicogna Nera torna giovedì prossimo, magari un po' rinsavita dalla malattia, e cosa dire ancora, vi auguro una buona continuazione tra poco nelle notti di Pan qui a Radio Onda Rossa. Ciao.